America 24 di Mario Platero. Oh, what's this? Can I walk in it? Yeah, if you want. Hello? What is Hi, what do I say? Are you Irish? What is yeah. I am so Irish, you have no idea. My dad's from Ireland. Happy St. Patrick's Day! Can I ask Mayor Bloomberg a question? Hi, Mayor. I'm from Italy. Hi, nice to see you. How did you enjoy the parade? I love the parade. Thank you. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Le voci urlanti che avete sentito in apertura di trasmissione sono di giovani che sono qui a St. Patrick's Day a celebrare la grande parata in onore del santo patrono irlandese. Oggi è la giornata dell'irlandese, New York è verde, letteralmente verde, l'Empire State Building ha le luci verde, verde ovviamente il colore simbolico dell'Irlanda, una gran quantità di trifoglie, soprattutto gente per strada, ci sono tra 1 milione e 3 milioni di persone che sono venuti in questa giornata di primavera e che poi continueranno quando la parata sarà finita nel pomeriggio il party nei pub irlandesi che ci sono in città, decine di pub irlandesi o qui a Central Park. Questa banda che ha ascoltata è l'associazione degli irlandesi delle forze aeree americane di stanza qui a New York, ma ci sono decine di associazioni diverse, dai Boy Scout, Vigili del Fuoco, poliziotti, tutti raggruppati, tutti a sfilare. Si calcola che in questa sfilata ci siano circa 150.000 persone. La città di New York ovviamente è conosciuta per avere decine di sfilate etniche di ogni genere, ma questa sicuramente resta la più importante, la più grande, la più bella fra tutte le parate che ci sono, sicuramente anche più importante e più grande di quella in onore di Cristoforo Colombo, il Columbus Day. Una delle grosse polemiche riguarda il fatto che i gay non sono ammessi in questa parata e queste voci che sentite di sottofondo sono le voci di protesta di gay e lesbiche americani, newyorkesi, che hanno cartelli e sono in rappresentanza di tutti, poliziotti, pompieri, lasciateci marciare. Ecco, e parliamo con Jay Mulligan. Hi, Jay. So what's the story here? We're here protesting our exclusion from participating in the parade as a first generation Irish American. Ecco, la voce che ascoltate di sottofondo è quella di Jim Mulligan, il capofila di questa dimostrazione. Ci racconta che sono 19 anni che i gay cercano di partecipare a questa parata, hanno provato anche a boicottarla, non ci sono riusciti. L'ostacolo principale, ci dice Mulligan, è la Chiesa Cattolica, la cattedrale di St. Patrick, che qui al centro della città non vuole che ci siano i gay che partecipano alla parata. Ecco, per le strade della parata, vi dicevo, tutti hanno magliette verdi, qualche cosa di verde. C'è un signore qui davanti a me che ha un completo verde addirittura. Hi, so where did you get this green coat? I bought it a few years ago just for the parade, yeah. Ma lei ha un accento? Io sono italiano. È italiano? Sì. E come mai a questa parata irlandese? Ho degli amici irlandesi e allora ci vestiamo tutti così. Oggi siamo tutti irlandesi. E quindi cosa succede in questa giornata? Stasera si va fuori a mangiare, mangiamo tutto il cibo irlandese. Corn, beef and cabbage. Cioè? E della carne con della verdura. Come mangeremo loro delle patate. E poi loro bevono tanta birra, ma io bevo il vino. Ho capito, quindi lascia per la birra loro. Ecco, vediamo nel frattempo di capire quali sono le altre vicende che in questo momento preoccupano il paese, al di là di questa bellissima parata che preoccupa soprattutto le forze dell'ordine. Ci sono circa 10-12 mila poliziotti schierati nella città per evitare il rischio non soltanto di pericoli di attacchi terroristici, ma ovviamente anche di disordini. Come sappiamo, gli irlandesi adorano la birra e qualche volta alzano un po' il gomito, soprattutto in occasioni di questo genere. Ma dunque la cosa che preoccupa di più in questo momento è la riforma sanitaria. I democratici hanno serie difficoltà, almeno fino ad oggi, nel mettere insieme quella maggioranza di cui hanno bisogno. Non è stato ancora fissato il voto, si sperava che per il fine settimana, per venerdì o sabato, potesse esserci l'importante voto per passare questa proposta di riforma, ma Nancy Pelosi deve mettere insieme 216 voti, ancora non c'è riuscita. La manovra di cui vi abbiamo dato notizia ieri, quella cioè per far passare questa proposta di legge senza voto e quindi in qualche modo per utilizzare un trucco procedurale che è disponibile in Congresso, per ora non va avanti. Ci sono state reazioni violentissime non soltanto dai repubblicani ma in generale dall'opinione pubblica. Si vuole che il passaggio di questa legge sia pulito sul fronte dell'altra riforma, quella finanziaria, altrettanto importante. C'è stata un'audizione ieri del governatore della Banca Centrale Ben Bernanke, il quale ha appoggiato la proposta di Christopher Dodd, ha detto che è importante muoversi in avanti il più rapidamente possibile perché questa proposta di riforma, una riforma in 11 punti che pone dei limiti alle attività delle banche, che pone dei limiti alle attività speculative degli hedge funds, che richiede nuove normative di controllo e di supervisione, che istituisce una agenzia per la protezione dei consumatori e che dà alle banche dei limitati poteri di investimento in operazioni speculative, ha detto Bernanke, è importantissima perché consentirà di minimizzare il rischio di avere entro tempi brevi una nuova crisi. Una delle nuove regole più importanti riguarda proprio la Banca Centrale Americana, sarà la Federal Reserve a svolgere un ruolo di supervisore assoluto, assorbendo alcune delle funzioni che prima erano svolte da altre agenzie di controllo come la FDIC o il Controller of the Currency. La Banca Centrale inoltre avrà sotto il suo ombrello proprio questa agenzia per la protezione dei consumatori. Sarà un'agenzia tuttavia indipendente, e Bernanke nel corso della sua audizione, parlando soprattutto ai repubblicani, ha chiesto di andare avanti rapidamente senza ostruzionismo. La tensione politica è altissima, il clima resta piuttosto complesso, le elezioni a novembre sono soltanto pochi mesi davanti a noi e dunque è difficile immaginare che i repubblicani consentano ai democratici di andare avanti da soli su un progetto di legge di questa importanza. Bene, passiamo a un paio di altre notizie economiche. Prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,6%, il calo più forte in 7 mesi, una conferma che l'inflazione è sotto controllo e che, come ci ha detto Ben Bernanke, i tassi di interesse resteranno molto bassi per un periodo piuttosto lungo. La borsa ha reagito a questa notizia, anche a questa notizia, ha chiuso al rialzo, ci siamo portati anche per l'indice Dow Jones ai livelli più alti in 17 mesi, siamo ormai proiettati verso quota 10.008-10.009, si torna a filtrare con quota 11.000, naturalmente ieri siamo rimasti attorno a 10.007, ma la soglia di resistenza la stiamo per toccare di nuovo. Finora non siamo mai andati molto al di sopra di questi livelli e dunque avremo un po' la prova del fuoco, dovremo vedere se tiene o se ci sarà di nuovo una correzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana, e intanto lasciamoci con la canzone del giorno che in onore di St. Patrick's Day e degli irlandesi dedichiamo a Bono e al suo gruppo degli U2, Where the Street Have No Name, dove le strade sono senza nome. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!